9 in punto. Bentornati a 9 in punto, stiamo parlando di demografia, stiamo parlando di popolazione e ci sono molti messaggi al nostro 349-238-6666, direi che si dividono un po' in due. Da una parte sottolineano appunto la difficoltà delle famiglie italiane di mantenere i figli e quindi di progettare nuovi figli, dall'altra si dicono ma insomma in questo nostro pianeta sono già 7 miliardi, la popolazione è in continuo aumento, perché continuate a parlare di problema demografico, dovremmo invece ridurre la popolazione. Ecco, abbiamo con noi anche Giampiero Della Zuanna, professore straordinario di demografia all'Università di Padova. Buongiorno Della Zuanna. Buongiorno a voi gli ascoltatori. Cosa rispondiamo a questi ascoltatori che ci dicono il mondo è sovrappopolato, dobbiamo attuare una politica che non sia quella di aumentare ancora di più la popolazione, ma dobbiamo invece pensare a diminuirla. Della Zuanna. Ma è vero che la popolazione mondiale sta aumentando ancora e aumenterà per i prossimi 2 o 3 decenni. È anche vero però che questo incremento è un incremento che sta molto meno forte rispetto a qualche anno fa, perché in tutto il mondo sta diminuendo rapidamente la fecondità. Ad esempio un paese come l'Iran ha famiglie più piccole rispetto alla Francia. Un paese come lo stesso vale, che so io, per la Corea del Nord piuttosto che per la Thailandia, oppure anche paesi appunto musulmani o paesi con tradizione di alta fecondità, ormai grazie anche a importanti politiche di pianificazione familiare hanno cambiato il loro comportamento. Quindi in prospettiva la sovrappopolazione della terra è destinata ad avere una forte attenuazione. E quindi però bisogna fare anche una differenza tra i paesi in via di sviluppo, dove il benessere sta portando anche a una diminuzione della crescita demografica, e i paesi sviluppati, dove qualche problema la mancata crescita demografica può creare. Ma anche qua bisogna intendersi, il problema non è tanto secondo me di tipo demografico quanto piuttosto di difficoltà dell'organizzazione sociale di adeguarsi al cambiamento demografico. Ad esempio parliamo dell'Italia o dei paesi ricchi degli europei, è vero che c'è un aumento della popolazione anziana e il numero di figli è relativamente contenuto, però è anche vero che per esempio un settantenne di oggi non è neppure comparabile con un settantenne di 30 anni fa da un punto di vista della salute, della capacità di fare attività e cose di questo tipo. Quindi il problema è adeguare anche, cioè non a caso infatti l'Unione Europea parla continuamente della necessità di sviluppare politiche di invecchiamento attivo, e ad esempio è bastato modificare di poco le norme sulla pensione anche in Italia l'anno scorso per far diminuire drasticamente il numero di persone che è andato in pensione di anzianità. Per cui capisce, è un problema proprio di adeguamento, a mio avviso, della nostra organizzazione sociale rispetto all'evoluzione demografica. Grazie, sentiamo qualche ascoltatore. Ferruccio da Torino, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Allora, io telefono perché anch'io ho una piccola famiglia, un figlio solo, e mi stavo ponendo in questi anni il problema di riuscire a risparmiare. Io in Italia, essendo un professionista, ho difficoltà a conseguire un risparmio mensile o annuale. Ieri, in combinazione, ho tramite internet fatto un piccolo sondaggio tra i miei colleghi che hanno deciso di operare. Chi è senza famiglia all'estero riesce tranquillamente a risparmiare almeno 1.000 euro al mese. Ed è una cifra impossibile per il tipo di professione che faccio in Italia. Grazie, si guadagna forse troppo poco, non ci si permette di risparmiare, se non si può risparmiare non si riesce neanche a progettare poi un aumento delle spese come può essere quello di avere un figlio. Proprio su quanto costa un figlio si era soffermato il rapporto del Centro sulla Famiglia quest'anno. Don Shortino, quanto costa avere un figlio? Beh, il costo è notevole per una famiglia che non ha possibilità di aiuto, si va dal 300 e rotte euro al mese, man mano che cresce la cifra diventa pesante per le famiglie che non hanno la possibilità di poter avere la disponibilità economica per una buona tenuta e buona educazione di questi ragazzi. Questo è un problema che bisogna porsi, perché davvero molti in Italia avrebbero voglia di più figli, ma non hanno i sostegni necessari, perché ripeto, in Germania e in Francia c'è stata un'inversione di tendenza e ci sono dagli assegni che sono più sostanziosi a tutta una serie di aiuti, gli asili nidi aperti in Francia 11 mesi e 11 ore al giorno, in Italia ci sogniamo tutto questo tipo di struttura. Ecco, io andrei a sentire proprio direttamente una famiglia. Paola da Roma, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Dico che appunto la donna non ha nessun aiuto. Dopo i 3 mesi di stare a casa, dopo la gravidanza, quelli obbligatori, si può prendere la facoltativa di 6 mesi, però ti tolgono il 70% dello stipendio. Cioè, se uno prende 1000 euro e poi dopo a casa ne porta 300 perché sta in facoltativa, è chiaro che ci pensa 2 volte a fare un figlio. Non ci sono asili nido, non ci sono assegni, diciamo, per le spese normali. E questo volevo dire, se anche il bambino sta male, quel giorno che non ci vai, sì, è vero, ci può stare anche il padre, ma il padre generalmente porta di più a casa, gli tolgono il 70% per quel giorno che è stato a casa, è chiaro che uno ci pensa e ci ripensa. Quindi viene aiutata troppo poco la famiglia in Italia? Anche la donna, io sono dovuta stare a casa 7 anni perché avevo i bambini piccoli. Gli asili nido sono, la prerogativa è per gli stranieri, per gli zingari prendono i primi posti, i nostri arrivano agli ultimi. Indubbiamente gli asili nido in Italia sono troppo pochi, lo dicono le statistiche, solo il 15% dei bambini italiani hanno un posto in un asilo nido, ma con differenze anche molto forti anche tra nord e sud. Al nord si può superare il 40%, al sud la percentuale è molto più bassa e le medie sono fatte così. Quello che dicono anche le statistiche è che la famiglia tipo vorrebbe avere più figli, l'aspettativa, quasi la volontà di avere figli è di 2 figli per famiglia, ma poi la realtà porta questa cifra a 1,2, 1,3, massimo 1,4. Claudio da Savona, buongiorno. Sì, buongiorno. Io vorrei fare un'osservazione che mi sembra persino stupida, ma nessuno mi dà mai una risposta. Sento continuamente un grido d'allarme per il discorso della crescita zero. Io invece, con tutti i problemi che sono stati elencati finora, che sono sacrosanti, ma io trovo che la crescita zero prima o poi sia assolutamente inevitabile, perché evidentemente, tanto per una questione proprio di spazio, noi adesso siamo circa 60 milioni di italiani, non potremmo pensare di diventare 600 milioni, 6 miliardi, sia per una questione di spazio, questione di inquinamento, di ecologia, di risorse. Inoltre c'è proprio un discorso di rapporto fra lavoratori e pensionati, che attualmente è di circa 1 a 3, se non 1 a 4. Quindi dei 3 figli che dovremmo fare, questi 3 andranno in pensione a loro volta, quindi ci vorranno 9 persone per mantenere questi pensionati e via così. Si chiama crescita geometrica o catena di Sant'Antonio. Io sono ignorante in materia, mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse dov'è la falla nel mio ragionamento. Beh, se posso umilmente dire, la falla nel suo ragionamento è che il mondo cresce, che la produttività del lavoro cresce, che lo stesso lavoro produce molto di più, che si diventa più ricchi, che il mondo è cambiato, che indubbiamente su questo fronte c'è bisogno di giovani generazioni che proseguano il lavoro dei padri, c'è bisogno che i padri diano il buon esempio, magari lavorino un po' di più, c'è bisogno di una politica attiva sul fronte della famiglia. E la crescita zero è un bel problema, ma il problema è che non è un obiettivo, è purtroppo una realtà. L'Italia da 10 anni ha una crescita negativa, che è stata una crescita di poco superiore allo zero fino al 2008, è diventata poi una crescita negativa nel 2009, anche a causa ovviamente della crisi internazionale. L'Italia cresce poco, è un paese, anzi non cresce quasi nulla, ma questo poi lo si vede perché ci sono poche risorse pubbliche, poche risorse per costruire quelle infrastrutture che sarebbero necessarie alla società nel suo complesso, non solo alle famiglie, alla società nel suo complesso, che sarebbero necessarie per avere appunto una possibilità di diffondere non solo il benessere ma anche l'equità, e con l'equità si diffonde anche il benessere. Ecco, su questo fronte ci sono molti SMS che ci sottolineano come la politica abbia in fondo mancato il suo obiettivo in tutti questi anni. Mi rivolgo allora a Mario Sberna, ricordo presidente dell'associazione Famiglie Numerose. Che cosa chiederebbe di più alla politica, ma in modo molto concreto, molto attuale? Mario Sberna. Ma guardi, lo ha già anticipato l'ascoltatrice Paola di Roma, chiederei alla politica veramente un'attenzione particolare alle donne. Pensiamo che una donna che non ha generato futuro per questo paese va in pensione con una carriera decisamente superiore a chi invece magari ha generato 3, 4, 5 volte il futuro del nostro paese, per cui chiederei almeno 3 anni di contributi figurativi pensionistici a tutte quelle mamme che hanno messo al mondo dei figli. Quando la mamma resta, come si fa in Germania per esempio, che così risolveremo anche il problema degli asili nido, in Germania si danno ad ogni partoriente 800 euro al mese per 3 anni, per cui con questi 800 euro al mese decide se mandare il bambino all'asilo nido e spenderne 500 o starsene a casa con il suo bambino e crescerselo con tanto amore. Poi certamente chiederei alla politica finalmente di guardare quanti volti, quante persone ci sono dietro un contatore del gas, dell'acqua, della luce, perché noi paghiamo tutti tariffe elevatissime, perché la tariffa sociale è solo per i single in questo paese, e quindi il contatore non guarda quante persone ci sono, così come non lo guarda la dichiarazione dei redditi, che non guarda quante persone ci stanno dietro, quante bocche vengono sfamate da quell'unico stipendio o da quello stipendio e mezzo nel caso di un lavoro part-time. Ecco, queste sono cose da fare immediatamente, perché la falla di cui parlava, chiedeva l'ascoltatore prima, è esattamente questa, che l'ascoltatore di prima stava parlando di un mondo che non c'è. Noi abbiamo ormai 30 anni di gap, perché riusciremmo a recuperare la natalità solo in 30 anni, e questi 30 anni non li abbiamo più, perché i famosi 3 lavoratori attivi per il lavoratore pensionato non li abbiamo più, perché non sono nati. Grazie. Per cui tra 10-20 anni. La realtà è questa, dottor Sberda, la realtà è anche il fatto che l'Italia appunto ha un tasso di partecipazione femminile al lavoro più basso degli altri paesi, pur avendo un tasso di natalità anche questo più basso, e molti ascoltatori sottolineano, dicono, ma come mai avviene questa contraddizione? E a questa contraddizione risponde appunto Massimo Livibacci nel rapporto che ho citato prima, presentato alla Confindustria Parma, perché il lavoro dà sicurezza, dando sicurezza di reddito, la donna, la famiglia in cui la donna lavora ha una maggiore certezza sul futuro e quindi ha maggiore propensione a fare dei figli, e soprattutto se sa che questi figli può avere un sostentamento, può avere un asilo che li può accogliere una volta superata il momento della maternità, come appunto avviene in Francia. Alcuni ascoltatori ci sottolineano che una famiglia con 2 figli in Francia paga molto meno imposte che non in Italia. Bentornati per l'ultima parte del nostro programma. Alcuni ascoltatori sottolineano perché non fate un contraddittorio, ma questa trasmissione non sempre deve essere un contraddittorio, può essere anche un'analisi sui dati di fatto, sulle prospettive, sulla realtà del paese. Poi ognuno ovviamente può fare le considerazioni che crede, ma sulla base dei dati, approfondire i dati può essere un elemento utile, e approfondire anche le esperienze, le testimonianze delle persone, come cerchiamo di fare. Onofrio da Verona, buongiorno. Buongiorno direttore. Lei è iscritto all'associazione? No. Non è iscritto. Però potrebbe iscriversi. Penso di essere un po' fuori quota, i figli miei sono già grandi e comunque io ho... Quanti sono? Io ne ho avuti 7. Complimenti. Ecco, 4 femmine e 3 maschi. Io volevo dire solo la mia in questo senso. Oggi crescere un figlio penso sia diventato un optional. Perché? Perché al primo posto c'è la macchina, c'è il telefonino, ci sono tutti i beni che ci offre il mercato, la società, i mass media che ci propinano anche. E allora che cosa vorrei dire? Chi direbbe mai a una famiglia, a un padre e a una madre, rinunciate a una macchina, rinunciate a un telefonino ultimo grido, a un televisore LCD e a tutto quello che rinunciate magari alle ferie per avere la gioia di crescere un bambino, di avere 2 o 3 figli che comunque arricchiscono più della televisione. Io vivo personalmente senza televisione, forse sono una mosca bianca, preferisco i libri e la musica classica, ma comunque i figli le hanno fatto compagnia però. Com'è? Anche i figli le hanno fatto compagnia probabilmente. Tanto, e sono stati la gioia della mia vita, sono stati. E voglio dire questo, nessun politico mai direbbe alla gente rinunciate a qualcosa, fate i figli, ma come si fa con 1.500-1.300 euro ad avere 2 macchine in una famiglia, aria condizionata? Certo che i figli, e poi se la prendono sì col politico che governa, questa volta è di destra, poi sarà di sinistra, ma io mi meraviglio sempre di più, io sono stato tanti anni all'estero, ma da noi purtroppo è un altro mondo. Insomma, se fanno... Grazie Onofrio da Verona. Osimo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Sinteticamente, libero professionista, padre di 4 figli, mantiene la moglie. Allora, io le voglio dire solo semplicemente una cosa: basta demagogia, basta parole, basta contraddittori, non ce ne può più. Aiuti non ce ne sono. In Francia io ho 4 figli, il più grande 24, il più piccolo 9. Non ho nessun tipo di aiuto. È chiaro che c'è meno amore, più materialismo, come diceva il signore di prima, però noi aiuti non ne abbiamo assolutamente. C'è solo l'arte di arrangiarsi, quindi in Italia ci arrangeremo sempre di più, l'Italia si svuota di italiani e si riempie di altri. Quindi non sono neanche d'accordo col demografico, con l'universitario, che dice che giustamente in Francia ci sono più figli e più famiglie numerose. In Francia i figli non pagano le tasse universitarie, in Italia le paghiamo. La ringrazio, io chiamerei appunto il professor Della Zuanna su questo tema, ma anche molti ascoltatori ci chiedono l'immigrazione che effetto potrà avere sulle tendenze demografiche. Professor Della Zuanna. Ma l'immigrazione, in particolare quella che è accaduta in Italia negli ultimi 10 anni, ha invertito fortemente il trend demografico negativo dell'Italia. Ora in Italia siamo 60 milioni e 500 mila e eravamo 56 milioni 10 anni fa, quindi evidentemente c'è stato questo forte incremento che è dovuto in buona parte all'arrivo di popolazione dall'estero. E questa non è una cosa che deve spaventare, perché in realtà questa popolazione si sta assimilando molto rapidamente, ossia sta diventando molto rapidamente molto simile agli italiani già presenti in Italia. Fra l'altro le migrazioni sono sempre state, in Italia in questo momento lo sono in modo importante, una componente fisiologica, una componente chiamiamola naturale della popolazione. Se posso dire una cosa con riferimento al discorso della Francia, dell'Italia. Allora, non dobbiamo pensare che in Italia la gente non ha figli perché vuole, perché è più egoista o cose di questo genere. Nel senso che l'Italia, se no bisognerebbe dire che i francesi sono meno egoisti degli italiani, che è una frase priva di senso naturalmente. Il fatto è che effettivamente portare un figlio all'età adulta in Italia non è il problema del telefonino. Il costo, cioè una famiglia con un figlio rispetto a una famiglia con 2 figli, dopo 20 anni della nascita del figlio si trova in banca 200.000 euro in più. Queste sono le stime sui costi dei figli, quindi non è un problema di un telefonino. E l'alternativa è fra avere il secondo figlio e aiutare il primo a comprarsi la casa. Allora, o si comincia anche in Italia a fare politiche vantaggiose per le famiglie numerose, se no la fecondità in Italia non potrà mai crescere in modo sostantivo. Bisogna dire, e poi concludo, che quando io però chiedo ai miei studenti se secondo loro è giusto fare politiche per le famiglie numerose, tutti mi dicono di sì. Quando però gli chiedo se bisogna alzare le tasse alla gente che ha meno figli, mi dicono tutti di no. Quindi in realtà, voglio dire, in Francia le famiglie con più figli pagano meno tasse perché ne pagano di più quelli che hanno meno figli. Gli italiani sono disposti a fare quello. Questo è il vero problema del fiscale. Beh, non sono disposti, professor Della Zuanna, probabilmente perché la maggioranza degli italiani, avendo pochi figli, pagherebbe più tasse. E l'Italia, come sottolineano molti ascoltatori, le tasse le pagano solo chi deve pagarle, mentre c'è una grossa dose di evasione fiscale. Però, indubbiamente, fare ulteriori sgravi per le famiglie con figli non costerebbe poi molto, perché queste famiglie sono ancora poche. Vero questo, costerebbe molto se lo si fa in modo serio, si parla di parecchi miliardi di euro, certo. Altrimenti sono solo cure palliative che non hanno utilità. Deve essere una decisione forte che dobbiamo prendere tutti insieme, e altrimenti continueremo a comportarsi come ci stiamo comportando e a sentire le difficoltà delle famiglie che sono intervenute. Ecco, per citare ancora il rapporto del professor Luigi Bacci presentato alla Confindustria, quello che ci vorrebbe sono politiche per il paese, non tanto politiche giovanili, non tanto politiche per la famiglia, anche se ovviamente le politiche per il paese comprendono queste, però politiche serie e reali per veramente sostenere la possibilità di questo paese abbia un futuro. Don Antonio Sciortino, presidente del Centro Studi per la Famiglia e direttore di Famiglia Cristiana, come vede il futuro dell'Italia? Ma se non si inverte la tendenza, lo vedo male, però io credo che se si insiste e si comincia a operare concretamente, si può davvero sperare in qualcosa di positivo, perché è vero che le famiglie non fanno più figli perché hanno poche risorse, però gli manca anche la speranza per il futuro. Noi dobbiamo dare speranza per il futuro, che sia però sostanziata da aiuti concreti. E poi io credo che bisogna cambiare mentalità, perché nei confronti della famiglia, da parte della politica, c'è un'aria un po' di sufficienza, nel senso che questi aiuti vengono calati dall'alto come fossero una benevolenza o un'elemosina che si fa tanto per metterle a tacere. Non si capisce che questo è un diritto previsto dalla Carta Costituzionale, per cui i politici non elargiscono nulla, svolgono solo il proprio dovere rispettando la Carta Costituzionale, dando gli aiuti necessari previsti per le famiglie. Bisogna cambiare questa mentalità. E io, quanto ho parlato alle famiglie numerose di cui il Presidente Sberno, ho detto: fate sentire la vostra voce. Non si può sempre che le famiglie sopportino tutto, perché ormai qualsiasi problema la famiglia l'ammortizza, dalla disoccupazione del figlio all'assistenza agli anziani, all'assistenza figli con problemi. La famiglia si fa carico di tutto, ma fino a quanto noi possiamo abusare della pazienza e delle risorse che sono sempre più limitate della famiglia? Grazie a Don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana. Ricordo che da questa settimana è in veste rinnovata e più ricca, soprattutto sui temi della famiglia. Vorrei concludere, ci avviamo purtroppo alla conclusione, con Mario Sberna, con una domanda. I suoi soci dell'Associazione Nazionale delle Famiglie Numerose sono felici? Sì, sono decisamente felici, perché non c'è nulla che riesca a contrastare questo grande desiderio di apertura alla vita che c'è nelle nostre famiglie. Tra l'altro faccio anche notare che la maggior parte delle nostre famiglie, compreso la mia, sono numerose perché hanno anche adottato o hanno figli in affido. E quindi è proprio una dimostrazione che l'amore per la vita supera qualunque difficoltà, anche oggettiva, della società. E la sera, quando torniamo a casa, la cosa più bella è ricevere queste manine che ti abbracciano, questi baci che ti bagnano e che ti danno davvero la gioia per tutte le cattiverie o difficoltà che ci possono essere. Certamente un paese che può permettersi di avere più famiglie numerose è davvero un paese più felice. Grazie dottor Sberna, vorrei proprio concludere qui. Non aggiungiamo parole, abbiamo iniziato parlando di economia, abbiamo concluso parlando di felicità, che poi è la cosa che conta. Io ringrazio don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, Gian Piero Della Zuanna, professore di demografia a Padova, Mario Sberna, presidente dell'Associazione Famiglie Numerose, Ettore Gotti Tedeschi, presidente dello IOR, così come ringrazio Filippo Reggi in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione. Grazie da Gianfranco Fabi, la linea GR.